9 in punto, la versione di Oscar. Ma robe da matti. Ogni tanto è piacevole cominciare con novità inaspettate di questo tipo. Evidentemente qualcuno si è dimenticato che bisognava partire con i Doors. Diamo per scontato che la mia voce non è come quella dei Doors, ma il significato è più o meno lo stesso. Viva gli imprevisti. Comunque buon martedì, siamo al 17 di aprile. La puntata di oggi ha un tema, e il tema è quello di trarre spunto dall'ennesima forma di tassazione, che è la tassazione etica sul cibo questa volta, perché il ministro della salute è tornato ieri su questo, che è uno dei punti forti del suo programma da sempre, il ministro Renato Balduzzi. Prima la salute, poi la cassa, però la verità è che lui lo fa con una tassa, tanto per cambiare. La tassa è naturalmente sul cibo cattivo, mentre il cibo sano ci fa risparmiare, e il cibo cattivo significa tasse in più, con lo Stato che ci insegna come è meglio, per evitare di ringrassare lui, che dimagriamo noi. Ecco, è tornata, e questo è il monito: è mai dimenticare che al peggio non c'è mai fine, per così dire. Ma non è questo il significato dei Doors. Come avete visto, si riaccende la crisi. Ieri il governo ci ha dato un ennesimo ceffone, una brutta delusione per chi la pensa come me: la delega fiscale e l'abbandono per sempre dell'orizzonte fiscale del nostro paese, di ogni promessa che prima almeno veniva fatta, poi non veniva mantenuta da Tremonti, dal centrodestra, ma veniva messa nell'ordinamento che si abbattevano alcune imposte, se ne facevano sparire alcune come l'IRAP, che esistono solo da noi, e si abbattevano delle aliquote per venire incontro a famiglie e imprese. Ora, con il governo dei tecnici, questa promessa sparisce per sempre. Nella delega fiscale di ieri c'è la rinuncia a qualunque impegno alla diminuzione della pressione fiscale. Ci dicono che dovremmo essere felici perché il governo ieri ha detto che la pressione fiscale non aumenterà, ma siccome è ex post che si verifica a quanto è arrivata la pressione fiscale, quando scende il PIL sale per forza, salirà inevitabilmente. Quindi vi posso dire che quell'impegno significa semplicemente, programmaticamente, non miriamo a che aumenti. Poi se aumenta ex post, cosa ci volete fare? Quindi, sparendo ogni impegno ad abbattimento di pressione, a semplificazione di questa o quella imposta, sparisce anche la promessa di reintroduzione del fondo che era nato, o meglio, che avrebbe dovuto nascere di qui a 9 mesi, con un decreto attuativo che ci avrebbe detto quando lo avrebbero introdotto e con quanta parte del gettito sopravvenente da riscossione, da lotta all'evasione, avrebbero dato a chi e a come. Non fanno neanche questo e dicono che è per prudenza. Questa non è prudenza. E mi dispiace doverlo dire per un governo che non ha alternative oggi, di cui ho molto sostenuto la nascita, perché quello precedente aveva perso ogni credibilità. Questa è semplicemente la via che dice che al problema del debito pubblico non si risponde con privatizzazioni, zero di questo governo, ed è un grave errore, perché bisognerebbe farle per 20-30 punti di PIL. Ci è arrivato persino Eugenio Scalfari domenica a dire che ci vogliono almeno 10 punti di privatizzazioni. Figuratevi, cioè ci sono arrivati anche loro. È possibile mai che questo governo privatizzazioni zero e faccia solo avanzi primari per maggiore via fiscale? Questo è l'errore capitale di questo governo. La delega fiscale di ieri è una delusione assoluta. In materia di abuso di diritto resta la norma che consente all'amministrazione tributaria di dire al contribuente italiano: se tu scegli due strade legittime e ne scegli una per risparmio fiscale in ossequio alla legge, noi ti diciamo che siamo in obbligo di respingere la tua interpretazione e di farti pagare di più. Certo, non sarà più un reato penale, ma comunque sarai esposto alla sanzione amministrativa e naturalmente a quella tributaria. Buono l'impegno invece di riordinare la tassazione sui movimenti di capitale transfrontalieri, perché questa è una delle ragioni per cui le multinazionali non vogliono venire in Italia. Pessimo questa presa per i fondelli che è l'IRI. Guardatela bene, a parte il nome, perché il nome la dice lunga su chi è statalista, perché risuscitare l'IRI anche di nome è un errore. Il discorso seducente che si fa con una punta di malizia, di sorriso da parte dello Stato tassatore ladro nei confronti dei piccoli imprenditori, degli artigiani e commercianti e partite IVA, è quello di dire: vi lamentate che sulle vostre piccole imprese il tax rate reale sia di 30, 35, a volte 40 punti superiore a quello di grandi imprese e banche? Ma vi capiamo, ma noi siamo pieni di comprensione. Ma perché dobbiamo solo randellarvi voltandoci dall'altra parte di fronte alla vostra legittima protesta di una totale violazione dell'articolo 53 della Costituzione? E lo Stato come risponde? Che cosa riserva davvero nella norma dopo il suo sorruso sorriso seduttivo? Dice, ma c'è un modo finalmente per far abbassare il tax rate reale della tua piccola impresa, caro il mio artigiano commerciante partita IVA. Ma è molto semplice. Tu sposta il reddito lordo della tua impresa, mettilo nel reddito della tua persona fisica e così certo diminuirà la tassazione tax rate reale sulla tua impresa, perché salirà quello della tua persona fisica. Allora il problema non è spostare di qua o di là ad uguale pressione, capite che questa è una presa per i fondelli, serve solo ad alzare la media delle dichiarazioni personali dei piccoli imprenditori, dimenticando che l'aspetto familiare e quelle tasse che si pagano sulle imposte, sulle imprese, sulla forma giuridica delle imprese, è così che si fa la somma. Se io sposto gli addendi ma la somma resta uguale, è una presa per i fondelli, l'ho dovuto spiegare anche ieri sera 8:30 di fronte al dottor Tinti, ex magistrato, che come al solito raccontava la bufala che gli artigiani e i commercianti, ha detto a un certo punto, basta eliminarli quando avremo capito che sono loro gli evasori, sono gli evasori perché hanno dichiarazioni medie molto infinitamente più basse dei lavoratori dipendenti, come sempre dimenticando lo splitting e il reddito d'impresa. Anche su questo la delega è una presa per i fondelli. Comunque, per chi fosse interessato ad approfondire, metterò poi su Chicago Blob il mio articolo di commento. E questa premessa era per andare al tema di oggi, ma consentitemi due ultimi riferimenti. Primo, parte oggi la campagna su Radio 24, la quale in piccolo ho dato un grande contributo, piccolo grande contributo, insieme a Sebastiano Barisone di Focus Economia in queste ultime settimane, la campagna Disperati Mai @radio24.it. Tutti coloro, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA, lavoratori dipendenti, tutti coloro che si sentono disperati e soli per la crisi, perché c'è lo Stato che ti incalza con le cartelle tributarie, perché il cliente non vi paga, perché avete esaurito la liquidità, perché la banca vi nega il fido, perché per tutte queste ragioni, se vi sentite soli e volete fare follie come quelle che ogni giorno ci siamo costretti a dover registrare nelle cronache, con questa catena di suicidi che ha rotto la soglia psicologica e che rende possibile l'emulazione purtroppo di massa, e a cui, questa è la nostra opinione, le associazioni di impresa fino a questo momento, con rare eccezioni, non stanno dando la giusta risposta, allora prima di fare sciocchezze, di sentirvi soli e disperati, scrivete a questo indirizzo disperatimai@radio24.it, perché noi ci impegniamo a dare voce alla vostra disperazione, quantomeno a tentare di parlarne. L'abbiamo lanciata ieri pomeriggio alla trasmissione di Sebastiano Barisoni, Focus Economia, avete sentito questa mattina il direttore rilanciarla, e già sono arrivate un mucchio di lettere a quell'indirizzo, a disperatimai@radio24.it. In fine trasmissione ne citerò alcune, voi scriveteci, io mi impegno ogni giorno a tornare sopra questo argomento. Andiamo ora al tema promesso della giornata. Ieri avete visto su Repubblica nuove interviste del ministro Renato Balduzzi. Il tema è, ve l'ho già detto, è quello delle merendine, snack, bollicine, tutto quello che fa male alla salute. Lo Stato dice basta tassarlo di più e noi facciamo lo Stato etico. Ne parliamo con Filippo Ferrua, che è presidente di Federalimentare, la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare. Buongiorno e grazie, presidente Ferrua. Buongiorno. E con Giorgio Calabrese, che è docente di dietetica e nutrizione umana, personaggio notissimo perché fa della ottima divulgazione oltre che ricerca di qualità, e per questo è il suo volto, il suo tono simpatico, e però anche i suoi interventi precisi e decisi in termini di dietetica e nutrizione umana sono ben noti a tutti. Grazie professor Calabrese. Buongiorno a voi. Allora, iniziamo, perché io voglio iniziare dal professor Calabrese prima che dal presidente Ferrua, perché il presidente Ferrua, è ovvio, tutti mi dicono quelli in ascolto, e ti credo, quelli sono gli interessi colpiti dalla tassazione. Sentiamo prima cosa ci dice il professor Giorgio Calabrese. Che impressione le fa lo Stato etico che dice con la tassa io segnalo al consumatore il cibo spazzatura da quello non spazzatura? La tassa aiuta a risolvere i problemi? La stessa sensazione che mi fa quando sulle sigarette vedo scritto il fumo fa venire il cancro, però lo Stato poi lo produce. Cioè, significa che qui dobbiamo disgiungere quelli che sono i veri goal obiettivi di uno Stato etico da quelli che sono gli obiettivi forzati da parte di uno Stato che, nonostante l'ottimo ministro Balduzzi dica, qui si vuole più far cassa che per risolvere i problemi. Io non sono d'accordo, lo dico da molti mesi, lei stesso mi ha dato il piacere di parlarne anche l'altra volta così en passant in un'altra intervista, sul discorso di tassare il junk food. Dunque parliamoci chiaro. Giannino, mi segua bene, noi abbiamo bisogno di capire che cosa significa junk food. Io prendo un uovo, secondo lei è junk food l'uovo? Apparentemente si direbbe di no. Lei prende l'olio extravergine, l'olio di mais, è junk food? Apparentemente si direbbe di no. Bravo, lei poi prende l'uovo e l'olio di mais e lo unisce e fa la maionese. Qui già iniziamo a andare su terreni scivolosi. Bravo. Allora, poi prendiamo un altro uovo che abbiamo detto non è junk food e lo friggiamo. È sempre più complicato. Junk food non è il cibo, è la tecnica, è quello che io faccio. Prendo la buona pasta italiana, ci metto la buona passata di pomodoro, ci metto il buon olio extravergine, ci metto il buon grana o parmigiano, questo non è junk food. Ma se io la pasta la faccio alla carbonara diventa junk food. Non esiste il junk food, esiste l'uomo che avvelena, che aggrava, che fa tutte queste cose che permettono poi a un cibo. Quindi come facciamo noi a definire il junk food? Che cos'è il junk food? E io sono esterrefatto da questa cosa qua. Io capisco che bisogna trovare un termine che spieghi. Ragazzi, abbiamo bisogno di soldi, cerchiamo di mettere questo cappello da qualche parte. E infatti il ministro Balduzzi, che è una persona onesta, racconta tutte le cose, solo che si dimentica di dire che questo non serve a migliorare la salute, ma serve solo ed esclusivamente a fare cassa. Io la penso, con molti meno titoli del professor Calabrese che ci insegna appunto queste materie, come lui, però sono sospettabile perché naturalmente ce l'ho sul fatto che lo Stato le inventa oramai 3-4 settimane le modalità nuove, perché mi pare che l'unico che dovrebbe mettersi, o il primo quantomeno, non l'unico, dovrebbe essersi davvero a dieta, dovrebbe essere lui. Cioè io sarei per pagare al professor Calabrese una maxi consulenza, perché credo che la spending review il professor Calabrese la farebbe meglio di Giarda. Questo tema che sia così, cioè forse un nutrizionista è ciò che serve per capire nella spesa pubblica, attraverso la spesa pubblica, dove riallocarne, dove serve per fini sociali, perché ci sono tanti capitoli sociali in cui la spesa pubblica va riallocata, e dove invece tagliarne perché è improduttiva, e ce n'è tanta. Forse un nutrizionista nella prossima composizione del governo tecnico aiuterebbe di più. E ora andiamo, perché attento professor Calabrese, che poi torno da lei, ma presidente Ferrua, Federalimentare che pensa? Le crina il capo? Beh, perché il governo dei tecnici ha sempre ragione, ovviamente, o no? Beh, dunque, innanzitutto naturalmente si vede perfettamente allineati al discorso che ha appena fatto il professor Calabrese. Tra noi non esistono cibi buoni o cattivi di per sé, esistono delle abitudini alimentari, delle frequenze di consumo che possono essere in certi casi anche eccessive, e quindi il rimedio vero è la educazione alimentare e lo stile di vita che deve essere insegnato, a cominciare dai nostri ragazzi nelle scuole e poi nelle famiglie, per appunto adottare corrette abitudini e stili di alimentazione. Questo qui, come per quanto riguarda l'oggetto della tassa. Poi la tassa per noi è assolutamente ingiusta, inefficace e pericolosa, e le spiego perché. Ingiusta fondamentalmente perché va a colpire le fasce più deboli delle famiglie, quelle dove l'alimentazione hanno ancora, la spesa alimentare ha ancora un grosso peso nel portafoglio della famiglia. Inefficace perché il consumatore si orienterà su prodotti che costano analoghi a quelli colpiti dalla tassa, che costino un po' di meno e quindi normalmente anche di qualità inferiore, con un effetto negativo sulla dieta del nostro consumatore. E poi pericoloso per gli aspetti economici, perché questo genererà un'ulteriore flessione dei consumi alimentari che già sono in regresso da ben 4 anni, e ci daranno delle difficoltà anche in termini di esportazione, perché questa tassa diventerà per i prodotti colpiti una sorta di marchio di infamia, cioè se, siccome si dirà la tassa ha colpito un cibo che non è buono, con quella tassa io mi troverò in difficoltà ad esportare questo prodotto, quindi veramente un quadro del tutto negativo. Professor Calabrese, ma se proprio volessimo intraprendere una, io quello sì che lo capisco, ai miei occhi più che comprensibile campagna per indurre il consumatore, qualunque sia la sua classe di reddito di appartenenza, il reddito disponibile che può destinare ai consumi, ma per ognuno, se dovessimo immaginare una campagna che ha l'obiettivo di far riflettere i residenti italiani e non italiani su come alimentarsi meglio per gli effetti, anche per prevenire prima che poi più avanti ci costi tanto nella sanità pubblica ciò che avviene, allora se volessimo immaginare una politica del prezzo finalizzata a questo, non dovremmo ragionare sulla cosa opposta, invece che disincentivare alzando i prezzi del presunto cattivo, dire questa cosa che costa meno vi fa oltretutto anche meglio? Ma veda, lei è un eccellente economista e non lo dico per farle piacere perché le è riconosciuto. Il discorso di fondo è che a me sembra che gli economisti stiano ragionando esattamente al contrario in questo momento. Lei ha ragione, se ha avuto modo di leggere qualche mia agenzia, ho spiegato che uno Stato intelligente parte al contrario. Immaginiamo un anziano che prende 400 euro di pensione, ma questo nella sua mente ogni giorno va a cercare il junk food, va a cercare il cibo che lo fa vivere e lo fa sopravvivere. Allora, la frutta e la verdura, ma lo sa quanto costano in questo momento? La buona vuol dire che ti sta facendo un sacco di lavoro, ma poi alla fine non ci arriva bene lo stesso, perché il problema di fondo è ci sono dei meccanismi da salvaguardare. Noi abbiamo un'ottima industria e degli ottimi singoli produttori che sono disponibili ambedue su elementi che sono fondamentali per la salute ad abbassare il prezzo e a migliorare la qualità. Ad esempio, per dare atto al ministro Balduzzi, che è una persona per bene e che è un uomo intelligente, quando lui dice nel giro di 2-3 anni con l'industria italiana noi andremo ad abbassare gli zuccheri e i grassi, ma non del 70%, ma parliamo del 1%, 2%, il che vuol dire che questi prodotti tutto sommato oggi vengono fatti abbastanza bene, questo lo posso capire, è intelligente. Allora, se io faccio il discorso dei cereali, nei cereali ci metto la pasta, deve costare di meno, il pane deve costare di meno, la frutta deve costare di meno, i legumi devono costare di meno, la verdura deve costare di meno. Se poi andiamo nel campo dei bambini che magari mangiano, io non la chiamo merendina, la chiamo fuori pasto, perché è un discorso diverso. E allora, se questo è fatto ai cereali e al latte, deve costare di meno, ma da parte dello Stato, cioè l'industria deve essere defiscalizzata e aiutarsi quindi a dare un prodotto sempre maggiore di qualità. La nostra industria è la migliore del mondo, i nostri piccoli produttori, i contadini sono i più onesti del mondo, ma perché noi dobbiamo aumentare il prezzo di ciò che non ci appartiene e non tentiamo invece di abbassare il prezzo di ciò che sappiamo produrre bene? Ecco, io sono d'accordo anche su questo. Lo Stato, che è lui intossicato dalle tossine del troppo alto prelievo che non riesce a metabolizzare bene, come tutti i dipendenti delle sindrome da dipendenza, ragiona solo su ciò che accresce e quindi ti propone il incentivo da crescimento. Io sono invece per l'incentivo da miglior metabolismo e abbattimento della dipendenza dello Stato dall'eccesso di entrate. Sono due strade alternative, perché vedete, da un certo livello di prelievo fiscale in più, e noi siamo abbondantemente oltre, è dimostrato dai casi empirici comparati dei diversi paesi che credere di stimolare attraverso i aggravi fiscali ulteriori ottiene l'effetto opposto di deprimere l'attività economica, consumi, redditi e investimenti, e noi siamo esattamente in questa condizione. Per questo ho collegato questo esempio concreto della proposta di Balduzzi, apparentemente sana, etica eccetera, all'errore di fondo che è quello della delega fiscale di ieri, perché tutto si tiene, vi parlano del junk food e del cibo che fa male, ma nella realtà è la logica malata dello Stato dipendente, la sua droga sono le entrate perché deve sostenere troppe spese pubbliche, e la applicano al cibo come se i dipendenti fossero voi. Però, Presidente Ferrua, il professor Calabrese oggi adesso ha puntato, lo fa ricorrentemente, ma apposta ce l'ho portato, ha ripuntato il suo dito sui prezzi della filiera. Proprio il ministro Balduzzi ha tipizzato, ha voluto formalizzare i tipi di contratti che legano tutti gli attori della filiera, dai produttori alimentari fino alla grande distribuzione. Ha fatto molto discutere questo suo intervento che ha fatto nel decreto liberalizzazione, perché per molte grandi imprese avere contratti tipizzati, cioè precisamente formalmente indicati, oltre che anche nei termini di pagamenti stretti come non ci sono in altri settori, molti hanno protestato, hanno detto questa non è affatto una liberalizzazione, è una complicazione ulteriore. Però resta il fatto che è vero che i prezzi della filiera che poi arrivano al consumatore finale sono aggravati da tanti passaggi, di cui pochissimo poi entra nelle tasche del produttore iniziale, e che su questo gli italiani continuano sempre poi a grattarsi la testa, e quindi su questo c'è il rischio di essere sviati, non tanto per la tassa aggiuntiva che ci mette lo Stato, ma perché la gente dice è troppo caro, e poi noi sentiamo invece il produttore all'inizio della filiera che dice che guadagna pochi centesimi al chilo per ogni prodotto. Su questo quali passi in avanti sono possibili secondo lei, Presidente? Beh, guardi, l'articolo 62 che è stato introdotto in questo decreto liberalizzazione ha avuto qualche problema, ma ha avuto certamente anche il pregio di dare una scossa su questo tema del disequilibrio economico che da anni regnava nella filiera agroalimentare. Dico da anni perché erano parecchio tempo che si parlava tra produttori e distributori di trovare un'intesa, di stabilire dei codici di autoregolamentazione, di disciplinare meglio i rapporti commerciali. Purtroppo tutte queste buone intenzioni poi si arenavano al lato pratico, e per cui questo articolo 62 adesso ha il pregio di in qualche modo costringersi ad arrivare a questo scopo, tant'è vero che prevedendo l'articolo 62 un decreto di attuazione che dovrà essere emanato entro 60 giorni, sono già ripresi i contatti tra il mondo della produzione e il mondo della distribuzione per cercare di convenire le modalità applicative di questo articolo 62. Certo, poi e quindi qui direi che è un fatto positivo che dovrebbe portare dei risultati. Però poi arriviamo a ottobre, quando da un lato entrerà in vigore definitivamente questo articolo 62, ma dall'altro lo Stato ci fa il regalo dell'aumento dell'IVA di 2 punti, sia l'aliquota del 10% sia l'aliquota del 21%, e andrà a colpire quindi qualcosa come 3 miliardi di valore di prodotti alimentari, praticamente colpendo tutti i prodotti alimentari tranne proprio quelli di base, il pane, la pasta, il latte. Ecco che quindi da una parte ci sono aspetti positivi, poi però i prezzi non possono certo diminuire con l'aumento dell'IVA. Va bene, purtroppo è ovvio che tanto per cambiare l'ennesima riproposizione non del junk food ma del junk state, del junk government, dello Stato che è assolutamente prigioniero della sua dipendenza da troppe entrate personali, le sue troppe stese, aumentando anche le imposte indirette come già deliberato a ottobre, ci ha appena ricordato il Presidente Ferrua, ed essendo l'unico paese avanzato che fa questo aumento in contemporanea con l'aumento delle imposte dirette con le addizionali locali, con l'aumento delle imposte patrimoniali con l'IMU e con quelli sui conti titoli e così via, quando un sistema fiscale come non c'è scritto nella delega di ieri non mette limiti al fatto di aumentare tutti i tipi di imposta contemporaneamente, siamo in un caso di paziente che rifiuta la sua qualifica di paziente, cioè di malato, e il malato è lo Stato, non siete voi che mangiate a casa il cibo, il malato è lo Stato, e questo governo doveva certificare che occorreva un paziente. Non serve un governo che faccia come tutti i governi precedenti, cioè continuare ad alimentare la sindrome di dipendenza da entrate in accrescimento per spese in accrescimento. Questa è la condizione nella quale ci troviamo. Ho usato, è vero, per l'ennesima volta le parole del serissimo ministro Balduzzi per invitarvi a riflettere su come possa essere seducente il sorriso del tossicodipendente Stato che vuole solo più droga da voi, i soldi per la sua droga che sono le entrate e la spesa. Quindi no a chi ci vuole insegnare cos'è il junk food, aumentando, sia chi tenta di farci riflettere su come mangiare più sani, poiché il portafoglio si restringe, come ci ha detto il professor Calabrese, con le cose che però devono costare meno, non di più, perché qui il malato è lo Stato. Ed eccoci tornati in studio. Abbiamo usato l'esempio della tassazione proposta dal ministro Balduzzi a conferma della linea accrescitiva delle entrate, che ieri trovate confermate in questa delega fiscale. La delega fiscale insieme alla spending review dovevano essere i due pilastri per fare meno spesa e meno tasse, invece al contrario. Si tenta di spacciare per prudenza del governo e per manutenzione dei saldi di bilancio il fatto di levare dall'orizzonte ogni promessa formale dello Stato nel nostro ordinamento di diminuire la pressione e di liberarci di imposte che non esistono in nessun altro paese al mondo, e di abbattere almeno alcune delle aliquote in almeno alcune delle imposte, invece di farle crescere tutte disordinatamente, contemporaneamente, e per di più con la presunzione di essere etici. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Michele da Verona, prego Michele. Buongiorno dottor Giannino, la ringrazio di avermi dato la possibilità di parlare. Intanto seguo sempre le sue trasmissioni, molto interessanti. Volevo solo evidenziare a riguardo di quello che sta succedendo. Ieri, ma così un esempio stupido, mi sono recato da un amico che ha delle campagne, fa l'agricoltore. Insomma, mi lamentava il fatto, ma pensa che mi è arrivata la comunicazione che praticamente, siccome lui coltiva le zucchine, che è un prodotto, cioè un prodotto veramente alla portata di tutti, ma le coltiva in serra, è arrivata la comunicazione che praticamente dovrà pagare l'IMU su quei famosi quelle serre posticce fatte con il tubolare di ferro e il nylon, perché comunque gli è stato contestato che sono postazioni fisse, per cui costituiscono come se fosse una zona operativa produttiva. Cioè, mi sembra assurdo, sì. Già prendiamo poco su quello che produciamo, pagando l'IMU dovremo chiudere le nostre campagne. Ecco, solo questo. Ma come sa, la fantasia che deriva da tossicodipendenza del malato stato drogato di entrate nell'inventare nuove possibilità di peccarne di più di entrate è questa. Quindi segnalateci tante di queste cose, come io inizio oggi a tentare di affrontare questa marea di iscritti che da ieri pomeriggio, appena abbiamo segnalato la nuova iniziativa di Radio 24, che ho molto chiesto e contribuito a fare insieme a Sebastiano Barisoni, e poi il direttore si è aggiunto, Fabio Tamburini, questa nuova iniziativa di mettere a vostra disposizione come ascoltatori un indirizzo mail, l'indirizzo è disperatimai tutto attaccato @radio24.it. da che l'abbiamo detto ieri pomeriggio a Focus Economia, sono iniziate a letteralmente piovere lettere su lettere. Ovviamente non è abbastanza e non è qualcosa di davvero significativo limitarci a raccogliere le vostre lettere. Adesso io inizierò a citarne e ringraziare alcuni semplicemente per dirvi l'idea che le leggiamo davvero e tentiamo di darvi voce, e ci torneremo nelle nostre trasmissioni tutti i giorni, organizzeremo un Radio Day di ascolto generale. È ovvio che il problema è quello di stimolare le reti d'impresa, le reti bancarie, le reti assicurative a mettere mano al portafoglio e a potenziare reti di ascolto territoriale. Bisognerebbe che le regioni capissero, soprattutto le regioni del nord-est e del nord-ovest, che sono quelle più colpite, o della fascia adriatica, perché le reti territoriali poi degli psicologi nelle ASL ce l'hanno loro, che questa è un'emergenza vera, quella del lavoro e quella dell'impresa, e che non bisogna fare come la Grecia, che è arrivata a 1484 suicidi economici dall'inizio dell'anno scorso. Ecco, bisogna impedirlo, non basta semplicemente dire non siamo la Grecia, il che è vero, ma bisogna sapere che quando salta una soglia psicologica poi il fenomeno emulativo diventa come sta diventando in queste settimane, purtroppo di massa. Noi lo abbiamo capito tra i primi, perché abbiamo un cuore, perché abbiamo una passione, perché io non mi sentirei a posto con la mia coscienza di mestierante dell'informazione se non contribuissi, anche cambiando tono, accalorandomi ancora di più di quanto già troppe volte faccio, per farvi capire che quando salta una soglia psicologica di quel tipo in un paese come l'Italia, che l'ha sempre avuta per fortuna solida questa resistenza alle difficoltà, vuol dire che siamo in presenza di una rottura, di una linea di faglia, di qualche cosa che mina in profondità l'identità stessa del paese. Cioè, la piccola impresa è questo, il suo valore di coesione, il suo senso dell'onore nel dire: io piuttosto che buttare fuori i dipendenti su cui ho messo ogni euro di quel poco di patrimonio, perché sono poco patrimonializzate, lo sappiamo, e l'ho messo per formare e tenermi i miei dipendenti, che sono la mia vera forza, piuttosto che dirgli non ho soldi per pagare perché devo pagare lo Stato, inizio a non pagare i contributi, poi inizio a non pagare l'INPS, poi a quel punto, quando iniziano a incalzarmi, non so più come fare e le banche hanno le porte chiuse. Lo so che vorremmo tutti vivere in un mondo in cui ciascuno in perfetta regola con i pagamenti, però io non sono di quelli capaci di ragionare sul fiat justitia pereat mundus, come tanti spaccatasche che fanno sempre la giustizia e l'etica fiscale dicendo: miserabili, meglio che chiudiate, piuttosto che essere gli evasori indegni che siete, voi lavoratori, autonomi, artigiani e piccoli imprenditori. Anche ieri sera mi è capitato. A me queste cose fanno ribollire il sangue, francamente. Questa giustizia taglia e squadra che dà sempre ragione allo Stato ladro e se ne fotte invece di ciò che questo Stato ladro implica nella vita di milioni di italiani. Quando si iniziano a suicidarsi, quello che possiamo fare noi è intanto spalancare i nostri microfoni. E allora, innanzitutto ne cito alcuni. Il primo è Massimo Di Muoio, piccolo imprenditore di Salerno, come tanti in crisi, soffocato da Equitalia. Il suo è un caso particolare: ha un credito di 1200 euro per cartella debitamente pagata nel 2005. Stiamo parlando di piccole cifre, come vedete, e lui chiede semplicemente che, siccome deve tra il dare e l'avere sono 4000 e 1200, lui dice: pago il saldo, saldiamo con 2800. Naturalmente invece non si può, dice lui. Posso solo rateizzare tutta la cifra perché il flusso dei miei 1200 non si trova. Quello, cioè ciò che lo Stato deve a me, quello l'amministrazione tributaria mi dice che non lo trova, e quindi mi hanno mandato un'altra lettera per avvisarmi al mio credito. In grassetto sotto c'è scritto: per il suo credito non le spettano interessi. E lui dice: ma che cavolo di Stato è questo? A me anche qualche migliaio di euro, conclude Massimo, fa attualmente la differenza per mettere in piedi anche ogni singolo centinaio di euro che mi serve per pagare le buste paga. Questa è, a furia di accumulare cose come questa, ha ragione Massimo. Poi ci troviamo poi di fronte alla gente che si trova disperata e sola di fronte all'amministrazione, tributaria. Poi chi voglio citare? Voglio citare Giacomo Simoncelli, che ci ha mandato una lunghissima lettera. E lui dice: sì, fallito, io non voglio usare questo termine. Giacomo ha 38 anni, è un artigiano orofo incastonatore. Nel 2000 ha aperto un laboratorio con partita IVA e, nonostante gli avvertimenti di amici e colleghi che mettevano in guardia sulle difficoltà, dice: non ho voluto dare retta perché ho pensato che il mio lavoro era affascinante. Potrebbe sembrare affascinante, aggiunge, ma è solo un servizio dato a gioielleria o orificeria, sicuramente un servizio specializzato ma sottopagato per un giovane artigiano che deve farsi conoscere. Poi dal quinto anno in poi iniziano i pensieri con gli studi di settore, i clienti che non volevano nemmeno sentire parlare la parola di DT e fattura. Per fortuna avevo il mio ex datore di lavoro che fatturava tutto e mi forniva la maggior parte del lavoro. Anno dopo anno riuscì a resistere, continua Giacomo. Dopodiché dal 2011 è iniziato il conto alla rovescia per la chiusura della partita IVA. Prima il governo Berlusconi ha cancellato il regime dei contribuenti minimi, riportandomi sotto l'ente gli studi di settore e aumentandomi l'IRPEF. Verissimo, hai ragione Giacomo. Ora il governo Monti, con la riforma del lavoro che verrà votata entro l'estate, mi darà il colpo di grazia per le nuove misure sulle partite IVA. Da 4 mesi non vedo più un cliente. Continuo a lavorare solitariamente con il mio ex datore di lavoro, che mi fornisce l'intero reddito di cui oramai dispongo. Quindi, secondo la riforma delle partite IVA in arrivo, dovrei essere riassunto dal mio ex datore di lavoro, cosa che è improponibile. Ditelo alla Fornero, dice giustamente Giacomo Simoncelli. È improponibile, in quanto il lavoro sta diminuendo giorno dopo giorno. Ed in più, ritornare a fare l'operaio dopo 12 anni con lo stesso padrone è un'umiliazione per me troppo grande, prima che impossibile per lui la riassunzione. Ora mi aspetterà il quindi un periodo da disoccupato alla ricerca di nuovo impiego, senza nessun reddito. Dovrei dire che sono un bamboccione? Non credo, naturalmente, però non ho moglie, non ho figli, e per tranquillizzarmi mi ripeto spesso: se devo lavorare per pagare le tasse senza mai un euro che rimanga in tasca, almeno anche lo Stato rimarrà a secco. Giacomo Simoncelli, fallito, io non voglio suicidarmi. Lo so Giacomo, lo spirito è esattamente questo che dici tu, e la lotta ai lavoratori autonomi intrapresa dallo Stato tossicodipendente di entrate fiscali, ladro per questo, perché i tossicodipendenti sono ladri e non lo voglio. vogliono ammettere, presumono anche di avere ragione etica, ecco, questo è quello che ci riserva. Tieni duro, e il tiene duro che riservo a Giacomo per tutti e alle tante lettere che ho qui in mano, e continuate a scriverci a disperatimai@radio24.it, perché ciascuna di esse costituirà un pezzo delle nostre riflessioni, ne citeremo le nostre trasmissioni e organizzeremo Radio Days per voi. E mentre ripartono i Doors, monito ai tecnici, non mi fate più scherzi come quelli di stamattina che mi sembrano di avere un ictus in diretta, andiamo a segnalare un altro caso concreto di disponibilità reale a mettere in piedi una rete di ascolto. Questa volta vi parliamo dell'iniziativa messa in piedi in Piemonte dalla CNA, quindi dalla Confederazione degli Artigiani, ed è con noi Franco Cudia, che è il presidente di CNA del Piemonte. Io lo ringrazio di essere qua e chiedo a Franco Cudia di spiegarci in che cosa consiste l'iniziativa del CNA in Piemonte, da dove nasce la vostra sensibilità, che cosa concretamente si può fare per evitare che la solitudine porti poi alla disperazione e a gesti insani. Prego, presidente. Buongiorno a lei, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma noi abbiamo avuto una riunione scorsa settimana dove abbiamo così ascoltato i nostri artigiani e abbiamo cercato di avvicinarci a loro con un sistema diverso, diciamo, da quello che lo Stato oggi fa, di cercare di ascoltarli, cercare di dare dei suggerimenti proprio perché non si suicidino, perché credo che tutto questo, la vita, vada riservata e vada preservata, perché forse non meritiamo uno stato di questo genere qui, forse non meritiamo neanche di essere trattati sempre come dei delinquenti, perché questo è diventato negli ultimi anni l'uno contro l'altro, perché siamo operai che lavoriamo, operai magari con un po' di specializzazione, niente di più, operai che affrontiamo con nostre spese, con nostri contributi, con i nostri sacrifici, qualsiasi informazione e formazione, perché quando andiamo a costruire qualsiasi attività ci mettiamo del nostro, il 25 del mese, il 27 del mese non prendiamo lo stipendio ma dobbiamo crearcelo, per cui tutti i giorni 24 ore su 24 ci tocca pensare a queste cose qui, e forse non abbiamo il tempo di magari per parlare con i colleghi, siamo nella solitudine totale, e quando accadono queste cose accade la disperazione più profonda. E sotto questo aspetto ci siamo permessi di divulgare ai nostri colleghi, ai nostri associati, di dare ascolto a queste cose qui, prima che facciano delle cose strane o che hanno problemi, e di avvicinarsi a qualche altro collega, di farci sapere qual è il vero reale problema, se è un problema economico, se è un problema di lavoro, se è un problema amministrativo, cercando di poter dare almeno un sollievo così morale. Perché sappiamo benissimo che oggi come oggi la strada è chiusa e la strada è in salita, non riusciamo ad avere più un DURC. Il DURC è un documento unico di regolarità contributiva che, oltre che doveva essere un documento che doveva cautelare le imprese da essere le imprese mafiose, è diventato un sistema di controllo delle imprese sane, perché per avere il DURC oggi non bastano più i 30 giorni, non basta più neanche il silenzio assenso, ma bisogna aggiungere numeri, codici e cavilli per arrivare a avere questo documento, per poi darlo al nostro benedetto cliente, che dice: senti, adesso ci puoi pagare. Da quel momento in poi inizia l'altro calvario della banca per avere quei soldi, e oltretutto negli interessi ci andiamo anche a pagare l'IRAP di fine anno, perché lo Stato ci chiede anche sugli interessi passivi che paghiamo anche questo. Ora, per questo che CNA Piemonte ha voluto dare questo centro di ascolto e cercare di dare un'opportunità anche a chi è disoccupato di vedere quali possibilità ci possono essere sul mercato, ecco, per persone che hanno magari anche già un'età media da poter affrontare queste cose. Perché poi il problema è anche poi di chi ha perso il lavoro di avanti nell'età e non ha naturalmente, come chi è più giovane, anche se è un difetto della nostra società anche quello che non funziona l'ascensore sociale e i giovani costretti a dipendere dalle famiglie troppo a lungo, però il problema naturalmente è che le vittime della crisi che sono sopra i 50 sono ancora più esposti ovviamente ai morsi di questa condizione. Ora noi, io deliberatamente, ripeto anche oggi, ringraziando il presidente Cudi e CNA Piemonte per quello che sta facendo, vedete, questa ha l'ambizione di essere una radio di sistema, non è una radio solo per Confindustria, Rete Impresa Italia no, partite IVA no, qui ci vuole un fronte comune di tutti quelli che lavorano in Italia, del lavoro dipendente, di chi è disperato come la pensionata Annunzia che si è buttata perché gli hanno tagliato 200 euro di pensione su 790, agli artigiani, ai commercianti, alle partite IVA, ai lavoratori autonomi che non sono affatto i nemici della società, come una spietata, martellante campagna alimentata da coloro che vogliono dividere gli italiani, da coloro che vogliono semplicemente mettere nuova droga in vena allo Stato, capite, che è il vero tossicodipendente da cui tutti dobbiamo imparare a difenderci, uniti, senza farci dividere. Per questo io ringrazio Cudi e tante altre iniziative che tutti i giorni tenteremo di segnalarvi sul territorio, e vi ricordo l'indirizzo a cui scrivere, qui disperati mai @radio24.it. Basta Stato drogato di tasse. 9 in punto.